La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon martedì 23 di settembre, qui in diretta da Radio 24 degli studi di Milano. L'indirizzo, la trasmissione, la versione di Oscar, chiocciola radio24.it. grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Vado rapidissimamente al tema del giorno chiedendovi di intervenire. Oggi parliamo di scioperi nei servizi pubblici, e la questione è come affrontare i disagi, gli effetti che queste manifestazioni della libertà, ovviamente di protesta, che fanno parte del bagaglio acquisito nella storia da parte sindacale dei lavoratori di questo settore, dei servizi pubblici, arrecano però inevitabilmente a tutti noi, ai clienti dei servizi, ai cittadini. E mentre poi ci sono alcuni comparti dei servizi pubblici che ovviamente hanno un impatto, sì, però uno si organizza sapendolo prima, cosa diversa per esempio è nel trasporto pubblico urbano, quando per centinaia di migliaia di persone nei grandi aggregati, nelle aree metropolitane, talora milioni di persone, a quel punto si trovano impossibilitate a utilizzare i mezzi pubblici che usano tutti i giorni per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola e cose di questo genere. Allora, il problema è lo scambio tra l'esercizio libero di un diritto di sciopero in un settore però per il quale ci sono già particolari regolamentazioni proprio per contemperare il diritto di sciopero con la tutela dei diritti della collettività, e quindi ci sono tempi minimi per la proclamazione dello sciopero, ci sono delle regole a cui presiede poi la commissione per il diritto di sciopero per il loro rispetto, su come questi scioperi non devono essere attaccati a scacchiera e così via. Però detto tutto questo, la sintesi, se guardiamo ai dati del 2013, è che noi abbiamo avuto nei servizi pubblici, dalla relazione che c'è stata all'inizio di luglio della Commissione Nazionale di Diritto di Sciopero, abbiamo avuto nel 2013 2.339 scioperi proclamati nei servizi pubblici italiani, che si sono tradotte in 666 giornate ufficiali di sciopero, cioè in tutta Italia due al giorno come media. E di queste 666, 293 nei soli trasporti pubblici, con grandi città come Roma, per esempio, che hanno avuto nel 2013 20 giornate di blocco dei trasporti pubblici, non in tutta l'arco della giornata, ma naturalmente in 6 ore classicamente, 3 ore e 3 ore, che sono però abbastanza importanti per i flussi cittadini di una città come Roma. 20 giornate, capite che stiamo parlando di quasi 2 giorni al mese di blocco, anche a Milano, fino a prima dell'estate noi andavamo in media a una giornata ogni 10 giorni in cui tra metropolitana e mezzi pubblici il trasporto pubblico locale a Milano era interessato da scioperi. E quindi la questione è, dite voi se siete favorevoli impedire di più, a rendere più difficile la tenuta degli scioperi nei servizi pubblici. In alcuni paesi, per esempio, ci sono settori interi nei quali è vietato addirittura, sono paesi limitati come numero, però ci sono dei segmenti dei servizi pubblici nei quali non si può scioperare. Oppure che cos'altro si può immaginare per tutelare meglio da una parte il diritto dei lavoratori del sindacato, ma dall'altra anche la collettività? C'è una proposta che avanza il nostro ospite, ed è una proposta che a me ha colpito molto. Sto parlando del segretario generale della CISL Trasporti, della FIT CISL, si chiama Giovanni Luciano. Grazie per essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a lei, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, se guardiamo questi numeri che ho ricordato, che sono quelli ufficiali, non è che sono un po' troppi questi scioperi secondo voi? Assolutamente sì, non ho difficoltà. Certo, lei ha letto i numeri della relazione, ovviamente c'è di tutto, cioè tutte le sigle sindacali per qualunque motivazione. Mi permetto di ricordare anche molti a sostegno della sicurezza degli addetti. Per carità, io non faccio la graduatoria delle ragioni. Assolutamente, no. C'è tutta una... Poi sappiamo anche che... Una statistica che testimonia appunto che c'è una situazione di degrado delle relazioni industriali nei servizi pubblici locali, sì, che ha tanti colpevoli, probabilmente anche il sindacato nelle sue varie forme, nelle sue varie istanze, ma è una situazione che assolutamente merita di essere affrontata, perché c'è una degenerazione in atto che ha delle motivazioni e noi cerchiamo di metterne in evidenza una in particolare. Molto spesso, e io qui non entro nei criteri della rappresentanza che però sono un problema, nel trasporto pubblico locale per esempio si tratta di sindacati di base, a volte anche di microsigle, ma che bastano naturalmente con una concatenazione di astenuti poi a bloccare il servizio per ore, e qui c'è anche una questione che riguarda la rappresentanza per la proclamazione degli scioperi. Ma detto tutto questo, andiamo alla proposta che lei ha avanzato, perché a me ha colpito, devo dire la verità, mi fa molto grattare la testa, però vorrei che fosse lei a spiegarla. Sì, io cerco di non aumentare il suo prurito. È molto semplice. Allora, appunto, convinto anche da una lunga esperienza personale sulla legge, sullo sciopero, sulla sua applicazione pratica, perché guardi, sono qui dal 2000, la legge del 90 è stata rinnovata nel 2000. Sì. Nel 2000 l'obiettivo della legge era quello dell'istituzione di procedure di raffreddamento e conciliazione, che hanno purtroppo fallito nel loro scopo. Detto ciò, una che degli... spiegato e tradotto ai non addetti ai lavori sindacali, sì, significa tra l'annuncio, la proclamazione dello sciopero e la tenuta vera dello sciopero, agevolare un confronto tra i rappresentanti sindacali, quindi i lavoratori, e le imprese, in maniera tale che poi la ragione dello sciopero venga meno. Perfetto, la modifica della legge del 2000 proprio istituiva proprio l'obbligo, sì, di un periodo nel quale le aziende e il sindacato erano obbligate a sedersi appunto per esperire le procedure. Però visti i numeri, di evitare gli scioperi, visti i numeri non funziona. Qual è il punto? Il punto è esattamente quello che da tempo noi mettiamo in evidenza e che abbiamo letto con grande meraviglia, se posso consentirmi, ma con piacere, che anche il Presidente della Commissione di Garanzia nella relazione che lei citava nell'introduzione ha riconosciuto. Molto spesso, troppo spesso, il conflitto, lo sciopero viene prodotto da atteggiamenti disinvolti da parte di controparti che, per rimanere al trasporto pubblico locale, quando il sindacato proclama sciopero hanno pochissimo da perdere, anzi hanno tutto da guadagnare. Sembra una provocazione. Cioè lei dice che le imprese, per esempio, di trasporto pubblico locale hanno da guadagnare dallo sciopero? Beh sì, guardi, risparmiano in carburante, risparmiano in stipendi non pagati, non sono chiamate a nessuna responsabilità sociale, le istituzioni si girano dall'altra parte. D'altronde perché ci dovrebbero essere stati fino ad oggi 13 scioperi nazionali a 7 anni di mancato rinnovo del contratto nella totale indifferenza delle controparti datoriali del trasporto pubblico locale? Qui mi tocca ricordare a chi in ascolto che naturalmente la rappresentanza delle imprese del trasporto pubblico locale fanno presente e chiedono anche a voi di capire che hanno dei bilanci terrificanti, che gli enti locali da cui dipendono hanno diminuito i trasferimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio aprire tutto il discorso sulle partecipate pubbliche locali, eccetera, eccetera. Vedete Cottarelli, vi rinvio a vedere le slide di Cottarelli, però loro dicono: noi pure abbiamo l'acqua alla gola. Lei dice: no, sono disinvolte. No. Che ci sia un atteggiamento disinvolto lo dice la relazione del Presidente della Commissione di Garanzia. Io sarei molto più drastico. Più drastico, vabbè, giustamente, sta dall'altra parte del tavolo. E quindi no, proprio. Guardi, c'è una cosa: Cottarelli arriva a buon secondo, certo, rispetto a chi le parla, rispetto alla sua confederazione, perché noi sono anni che denunciamo una situazione di 1200 aziende, l'esigenza di aggregazione, bravo, l'esigenza o di che ne so, i soldi buttati dalla finestra dall'ATAC a Roma premiando manager dei partiti che non hanno niente a che vedere con la produttività, ecco, chi lavora poi sugli autobus, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo stati tra i pochi a denunciare il fatto che un'amministrazione comunale, qualunque nome abbia il sindaco, esatto, non si può permettere di licenziare, di cambiare 6 amministratori della casa in 2 anni. Bravo. Perché se non si incide. No, ma dell'ATAC abbiamo parlato più volte. Allora, andiamo al punto rapidamente, poi ci torniamo perché abbiamo un'interruzione strada. Per questo lei propone che. Io propongo che con un'iniziativa di legge popolare bla bla bla, due semplici cose, sì, giornata di sciopero nazionale a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale, va bene. Per quella giornata i contributi pubblici non vadano all'azienda, quindi i contributi e servizi non vadano all'azienda ma nel fondo di solidarietà che accompagna le crisi di riorganizzazione industriale. Quindi quando si sciopera per quel giorno i trasferimenti pubblici alle aziende vanno in un fondo bilaterale. Ma vanno nel fondo bilaterale. E poi la seconda cosa che è quella la che... La seconda cosa è le fasce pendolari, che sì, noi ovviamente per legge non ci sogniamo assolutamente di non garantire, sì, quindi le fasce che usano i pendolari al mattino, al pomeriggio, a seconda delle città, durante quelle fasce orarie le persone viaggino gratis. Ah. Perché un minimo, cioè è un segnale per dire all'opinione pubblica, guardate, qui c'è bisogno di riequilibrare il senso delle relazioni industriali, ma per riorganizzare questo settore. Abbiamo visto trasmissioni televisive, assistiamo a degenerazione al limite della barbarie con l'aggressione. Però lei dice anche, oltre a leggere gratis, se c'è un danno, il danno a quel punto è l'azienda che ne risponde diminuendo le tariffe. L'abbonamento, lo sconto sull'abbonamento se c'è un problema del pendolare. L'abbonamento viene rinnovato alla prima scadenza scomputando il valore di una giornata sull'abbonamento. Quindi in buona sostanza facciamoci rimettere, rendiamo corresponsabili ma in solido le aziende per i giorni di sciopero. È un tentativo disperato di mettere in evidenza che occorre responsabilità. Il vostro tentativo è, se penalizziamo anche economicamente le aziende, le induciamo ad avere un atteggiamento più responsabile. Dall'altra parte il fatto è che, come è ovvio, quello che mi fa grattare un po' la testa è che se programmando lo sciopero ci rimette il datore è un po' una cosa che a me fa grattare la testa, però siamo qua per discutere. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta alle 16.50. Stiamo parlando degli scioperi nei servizi pubblici. La proposta del segretario generale della CISL Trasporti, che è con noi, Giovanni Luciano, l'avete sentita, è quella di indurre le aziende a un atteggiamento diverso nei confronti delle richieste che portano poi agli scioperi da parte dei sindacati, penalizzandole, cioè rendendole corresponsabili anche in solido di una perdita nel caso in cui lo sciopero poi si tiene perché il tavolo non riesce a trovare una soluzione rispetto alle richieste sindacali. Luciano, lo scopo con cui lei l'ha descritto è chiaro, ma non si tratterebbe di una cosa un po' singolare? Cioè, lei capisce che a quel punto, siccome abbiamo visto, non lo so, pochi mesi fa Genova bloccata per giorni e giorni per una protesta sindacale che ha veramente infranto anche le regole dello sciopero dei servizi pubblici, Genova era bloccata. A quel punto ipotizziamo che di fronte al danno che ne viene all'azienda, basta poco, un po' di responsabilità e diventa una cosa distruttiva. Poi, se vogliamo estendere un principio di questo tipo a tutti gli altri settori, non lo so quali sarebbero le conseguenze, no? Non è così, non c'è un rischio molto forte in questa roba di dire paga l'azienda? Sì, guardi, io ripeto, questa proposta è limitata alla fattispecie di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, non a qualunque vertenza aziendale, cioè è molto limitata. Per il fatto che siamo in sette anni. Questa è la cosa che stiamo vivendo, ma guardi, io penso che se si agisse tutti responsabilmente, e le parla un esponente sindacale che su tante vicende dei trasporti dimostriamo sempre molta responsabilità, l'ultimo il caso Alitalia, ma potrei citarne altri, questa proposta tende a ridurre tendenzialmente il numero dello sciopero. Io non ho intenzione né di danneggiare le aziende né tantomeno di far vivere appunto i blocchi delle città, perché poi a furia di comprimere, come si dice dalle mie parti, l'acqua trova la strada e poi scoppiano quelle cose. Va bene, io so che lei ci deve lasciare un po' prima. Le faccio un'ultima domanda che mi sta colpendo in questi giorni. Scusi, a proposito dei trasporti, io paragono il silenzio totale che c'è tra i 1600 esuberi di Meridiana, compagnia aerea, al fatto che ci siamo occupati per anni, mesi, settimane, terribili, degli esuberi di Alitalia. Ai miei occhi, lo dico chiaro, è la radio di Confindustria. Purtroppo la differenza è che Alitalia era degli amici di Banca Intesa e quindi bisognava salvarla, mobilitare tutti, i sindacati, i soldi del tesoro eccetera. Meridiana chi se ne frega, sbaglio a pensarla così? Perché non c'è una riga sui 1600 di Meridiana, che non mi sembrano pochi a dire la verità. Guardi, io non più tardi due giorni fa ho fatto proprio una dichiarazione in tal senso, è andata anche sull'agenzia ma è morta lì appunto. Non capisco perché non c'è la stessa ansia politica e mediatica. Ma perché contano meno il peso dei proprietari? 251 su 13.500, esatto. 1.600 su 1.750. Esatto. No, diciamolo, e poi io se qualcuno... Se mi è consentito, la ringrazio. Io vado a Milano, dove domattina illustreremo i contenuti della campagna pubblicitaria a sostegno della raccolta delle firme, perché va bene, come vede vi abbiamo dato voce per questa proposta, secondo me un po' singolare, ma grazie a lei Giovanni Luciano e auguri per il vostro lavoro. Sentiamo Carlo da Roma, come la pensa Carlo? Buonasera Giannino. Buonasera. Allora io le volevo parlare, volevo accennare qualcosa riguardo al discorso ATAC a Roma, che forse è l'azienda simbolo del trasporto pubblico in Italia, per la situazione prefallimentare nella quale si trova. Sono parte in causa, avendo la moglie che lavora lì ormai da 15 anni circa, e negli ultimi 20 anni c'è stata la moltiplicazione dei quadri dirigenziali a causa dello spezzatino aziendale, dove il più piccolo dei dirigenti percepisce stipendi da 240.000 euro all'anno. E dove poi chi fa veramente la ciccia dell'azienda, cioè il personale amministrativo, è stato inquadrato negli ultimi 15 anni in una figura che si chiama operatore alla mobilità, che è praticamente l'equivalente di un operaio con il contratto del commercio e non quello degli autoperotranghieri, e dove i trattamenti economici e professionali sono ridotti al minimo, e dove a fronte poi di sentenze passate, come dice il buon Di Pietro, passate in giudicato dei pretori del lavoro, l'azienda non riconosce assolutamente nulla. Allora Carlo, di questa cosa noi ne abbiamo parlato più volte, lì i partiti di destra e sinistra hanno fatto sacco di quell'azienda per mettere un mucchio di gente che guadagna un mucchio di soldi e non c'entra niente poi col disservizio e la condizione degli autisti. Hai perfettamente, secondo me, ragione. Mi scuso con Loredana, ma dobbiamo chiudere, quindi continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.